عشت عربية حرة أغية في ظلك وقابو عزي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمد من هالمد من هالمد واخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني وتضيء بي الأحلام أديكي بروحي واخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني. Buongiorno Palestina. Siamo un po' accaldati e questa è l'ultima trasmissione che facciamo prima dell'intervallo estivo. Per i palestinesi non c'è intervallo estivo, i problemi ci sono sempre e di questioni ce ne sarebbero sempre da raccontare e da discutere. Però insomma le forze nostre sono quelle che sono e quindi siamo un po' obbligati a interrompere e riprenderemo il 4 di settembre, sempre mercoledì, sempre alle 19, dalle 19 alle 19.30. Oggi in studio abbiamo, indovinate chi? Marisa. Ecco, allora Marisa, di cosa ci parli oggi? Da un libro che ho letto ultimamente di Chiara Cruciati e Michele Giorgio, che mi è piaciuto moltissimo, nel senso l'ho trovato interessante, 50 anni dopo, che va bene, affronta tutta la problematica appunto dal 67, dalla Naxa ai giorni nostri. Ma c'è un capitolo in particolare che ha colto la mia attenzione, sarà anche per distorsione professionale, un'economia prigioniera. E quindi ecco, vorrei parlare un pochino con te di questo argomento, perché certe cose l'ho viste anche andando a fare il viaggio in Palestina, a Nablus, a Hebron, e lo ritrovate appunto in questo libro, in cui appunto si constata che cosa? Che l'economia palestinese è stata dissanguata, tipo Hebron, che era famosa per un'attività produttiva, quella delle scarpe di cuoio. Beh, dunque, forse conviene ricordare che la Palestina era un territorio ricco sul piano agricolo, era una società rurale e quindi anche con le strutture, diciamo, sociali di tipo rurale. Non era una società industriale con tutte le raffinatezze e le complicazioni anche sul piano sociale della società industriale. Quindi era una società semplice, patriarcale, rurale, ricca. Ricca nel senso che era molto produttiva. Alla fine dell'Ottocento la Palestina salvò due volte la Francia meridionale dalla carestia con i propri prodotti. Ecco, quindi su questa società rurale si è artigiana andata... Artigiana anche. Come? Rurale e artigiana anche. Rurale e artigiana, esatto, rurale e artigiana. E si è andata a inserire un diverso modo di produzione e un diverso modo di socialità, quella importata ed imposta da Israele. Ecco, vai avanti e poi io ho qualche osservazione ancora, sì, da fare. Sì, certo. No, dicevo appunto, Hebron è rimasta delle 100-130 aziende la Camel Sandals, un piccolo gioiello sopravvissuto alla devastazione appunto di questa attività produttiva di scarpe di cuoio. E questa azienda è riuscita a rimanere sul mercato e vendere dentro e fuori il paese per legami col commercio ecosolidale. i pochi calzaturifici che ancora sono aperti sono costretti a vendere a Israele, che poi rivende la produzione al doppio del prezzo con l'etichetta Made in Israel e certificato di autenticità. Cioè, dicevi calzaturifici legati probabilmente alla pastorizia come materia prima, quindi alla concia. Sì, perché facevano scarpe di cuoio di alta qualità, come ad esempio a Nablus. Ricordo che fra tutte le aziende, anche lì sulle 150 se non di più, che fanno e fabbricano il sapone, ne sono rimaste 5. Per il solito motivo, non sono riusciti a reggere che cosa? La concorrenza sleale che Israele ha fatto, perché ha aperto al mercato i prodotti di bassa qualità e a bassi costi dell'Asia dell'Est. E quindi ha risucchiato con questo tutta l'energia produttiva che restava dell'industria palestinese. E Israele, cioè dirlo, pone molti ostacoli all'esportazione dei prodotti palestinesi, che sono sottoposti a una tassazione israeliana e spesso vengono lasciati nei porti per giorni, settimane, ritardando così gli ordini e danneggiando le fabbriche produttrici, senza contare poi i danni che questo comporta all'indotto, no? Cioè di tutte le aziende che prosperano e rimangono in vita perché fanno parte della produzione generale, come può essere, per farsi capire, l'indotto della Fiat, dell'Alfa Romeo. Perché Israele controlla la frontiera e impedisce al governo palestinese di limitare l'importazione, quindi c'è un'ondata paurosa di, come dicevo, di prodotti di bassa qualità che provengono dall'Asia dell'Est, che quindi minano, capito, e tengono sotto scacco invece la produzione dei prodotti palestinesi. E diciamo che l'autorità nazionale palestinese non fa nulla se non impone una minima tassazione sui prodotti asiatici, non controlla le frontiere, non può decidere quali prodotti autorizzare e quali no, non può stabilire standard qualitativi né tasse doganali, a intervenire è solo Israele, che apre e chiude le frontiere e decide quando invadere con l'import. Pensa un pochino. Ecco, questo per quanto riguarda i prodotti industriali, artigianali. Artigianali più che altro. Perché si basa più, è priva di industrie, si basa più sull'artigianato, che però è una fonte, ma anche da noi, anche in Italia, no? Noi siamo formati soprattutto, a parte le grandi aziende, ma la maggioranza sono piccole e medie aziende. Il nostro sostrato produttivo è fatto da tanti artigiani, da tanti piccoli artigiani, e la parcellizzazione appunto di questo settore produttivo può essere da una parte un vantaggio per l'alta qualità, dall'altro può essere un limite all'espansione a livello internazionale. Dunque, scusa se interrompo con una, ma dunque adesso parliamo di economia palestinese. Però un'altra volta parliamo dell'economia israeliana, perché certo, anche su questo c'è un libro molto interessante e che conviene parlarne, cioè l'industria israeliana su che cosa si basa e su che cosa soprattutto esporta. Va bene, comunque andiamo avanti con quella palestinese. Allora. Sì, e poi ad esempio una cosa che mi ha colpito di quello che avevo letto di questo libro è che dal 67, cioè quando Israele ha occupato la Cisgiordania, praticamente ha ingenerato una politica che ha trattato i palestinesi come consumatori per i propri prodotti e gli ha resi operai non specializzati delle proprie industrie e nel settore delle costruzioni. Perché i palestinesi che iniziano a lavorare, lavorano in Israele, ricevono salari molto più alti di quelli medi dei territori occupati. E quindi chiaramente c'è la corsa per tutti i giorni andare in Israele a effettuare questo tipo di manevolanza. Ma questo cosa ha comportato? Che le terre sono rimaste semivuote. E quindi i lavoratori, che prima erano agricoltori e contadini, sono diventati schiavi di un sistema esterno dominante, consumatori e lavoratori a basso costo. Dunque, ecco, vorrei poi, adesso facciamo un breve intervallo musicale, poi vorrei riprendere dal come Israele si è procurata la forza lavoro, a partire dalle vicende del 1948. Sul discorso dei lavoratori che ti avevo detto prima, che sono diventati da contadini e coltivatori schiavi di un sistema esterno. Ora i dati sono fermi, il libro del 2017, comunque siamo lì insomma. E diciamo che circa i 70.000 palestinesi in Cisgiordania hanno un permesso di lavoro al quale se ne affiancano altri 40.000 illegali e senza contratti né permessi. Si ritrovano nei punti di raccolta lungo il confine. Io l'ho visti quando sono andata in Cisgiordania. Si può vedere anche qui in Italia. Si ritrovano quindi nei punti di raccolta lungo il confine per essere caricati su dei picappi da un caporale che li porta al di là del muro con un pagamento da 50 a 125 euro, tradotti appunto in euro, e, a seconda della distanza da percorrere. Dietro tutto questo c'è una macchina organizzativa molto efficiente che vede coinvolti clan locali e aziende compiacenti alla caccia di lavoratori a basso costo. Allora, in genere pensa al salario è di 150-250 shekel al giorno, al lordo di cibo e acqua. E quindi messo in euro siamo sui 40-60 euro al giorno. E per finire, nel caso di incidente, il lavoratore è lasciato a se stesso, senza alcuna copertura sanitaria. Quando l'incidente è mortale, tocca alla famiglia pagare i servizi medici israeliani per avere indietro il corpo del familiare. Questo c'è un aspetto in particolare che conviene sottolineare, cioè che i lavoratori palestinesi sono al di fuori, vivono al di fuori del territorio israeliano, che sia territorio israeliano lecito o illecito, come quando si tratta di insediamenti. di insediamenti illegali. Comunque i lavoratori palestinesi vengono da fuori. Che cosa vuol dire che vengono da fuori? Vuol dire che è un modo per considerarli sempre degli estranei, dei non domani cittadini, perché questa è una cosa di cui Israele ha il terrore, cioè dover un giorno dover riconoscere i palestinesi come cittadini di Israele. Quindi ogni sforzo e ogni provvedimento è preso in modo da tenere comunque i palestinesi al di fuori di ogni possibile richiesta di cittadinanza israeliana. Questo ovviamente contraddice con la sempre maggiore espansione di Israele e la sua fame di impossessarsi di tutto il territorio della Palestina tradizionale. E quindi si apriranno delle contraddizioni notevoli in futuro. Beh, volevo fare una precisazione su questo che hai detto, Claudio, perché tu sai che da qualche tempo si parla del concetto Stato-Nazione, cioè Israele, che in realtà è uno Stato etnogeografico, quando dà la cittadinanza, tipo anche un palestinese che vive in Israele, no? È cittadino israeliano, ma unico paese in tutto il mondo la cittadinanza non corrisponde alla nazionalità, cioè noi siamo cittadini italiani e siamo italiani come nazione, giusto? Ecco, lì hanno proprio incentrato sul discorso etnico e quindi gli ebrei sono cittadini israeliani, nazionalità ebraica. Un palestinese che vive in Israele è cittadino israeliano, nazionalità araba, drusa, curda. Hai capito? Cioè c'è la disgiunzione, il lo slegamento fra cittadinanza e nazionalità, e questo la dice tanto e le dice molto sul discorso quando si continua a dire, pur essendo cittadini israeliani, sono considerati cittadini di serie B, e questo è il motivo. Ed è molto grave perché è l'unico, ti dicevo, caso in tutto il mondo in cui c'è questa separazione. Sì, questa separazione si chiama apartheid in altri termini, no? Perché quando tu privilegi un'etnia piuttosto che un'altra, vuol dire che lo Stato non è più uno Stato democratico, ma è uno Stato in qualche maniera, è uno Stato di una parte. Tuttavia, quello che dicevo a proposito della cittadinanza, perché la cittadinanza israeliana dà il diritto di voto. Ora lasciamo stare che nelle ultime elezioni la componente araba, palestinese, drusa, eccetera, ha votato poco. È comunque una minaccia per Israele il fatto di avere un numero di cittadini che sopravanzi o che avvicini il numero di cittadini di etnia ebrea. Però volevo tornare sulla questione dei lavoratori. Dunque, la questione della forza lavoro in Israele si è posta fin dall'inizio e si è posta inizialmente con l'impostazione che aveva dato Theodor Herzl, cioè quello di non dare lavoro ai palestinesi, cioè mandarli fuori, cacciarli via e non dare il loro lavoro, cioè farli rendergli la vita impossibile. Però una volta costituito lo Stato di Israele nel 1948, cacciati via con il terrorismo, con la forza, i palestinesi, lo Stato di Israele si è trovato nella necessità di avere della forza lavoro a basso prezzo e soprattutto averla. Questo perché da parte occidentale l'immigrazione verso Israele era considerata insufficiente, cioè gli ebrei delle nazioni occidentali preferivano andare in America, andare in Canada, ma non di andare o andare in Inghilterra, ma non andare in Israele. E quindi il problema era quello di avere della forza lavoro possibilmente ebraica. Allora, questa forza lavoro dove era però? Cioè, il mondo ebraico era molto esteso. Nei paesi arabi le comunità ebraiche erano molto ampie, nello Yemen, nell'Arabia Saudita, in Marocco, in Siria. Allora che cosa fecero? Fecero lavorare il Mossad a forza di attentati. Di attentati contro sinagoghe, contro comunità ebraiche, per convincere le comunità ebraiche dei paesi limitrofi che loro erano perseguitati e che erano mal visti lì. E così si hanno avute le grosse immigrazioni iniziali da parte dei paesi arabi. Ci sono stati dei sistemi di trasporto appositamente organizzati da Israele per convogliare migliaia di cosiddetti profughi, ebrei, i quali arrivati in Israele poi non vennero per nulla trattati bene, perché erano considerati troppo arabi da un punto di vista degli europei ashkenazi. Questa fu la forza lavoro iniziale, forza lavoro a basso prezzo, perché tutto sommato di mentalità e di connotazioni arabe, e molti di questi non parlavano l'ebraico, ovviamente, perché parlavano arabo, perché come si sa l'ebraico non lo parlava nessuno prima, cioè era parlato solamente nelle cerimonie religiose, ma l'ebraico è stata una lingua fabbricata dopo la costituzione dello Stato di Israele. Ecco, quindi questa forza lavoro ebraica venne costituita attraverso la violenza ancora, cioè la autoviolenza, cioè violenza perpetrata nei confronti delle comunità per convincere queste comunità che nei paesi dove loro abitavano erano mal viste, cosa che era per lo più non vera. E questi di cui ha parlato, i Misri, appunto gli ebrei arabi, sono stati sempre considerati il terzo incomodo in Israele, e come appunto hai detto te, sono stati maltrattati, minacciati, considerati proprio, oserei dire anche proprio la feccia. C'è anche un libro molto interessante appunto che parla proprio del terzo incomodo degli ebrei arabi. E un altro incomodo che però ha fatto torna conto a Israele proprio per la forza lavoro, e sono stati anche gli ebrei etiopi, che sono stati i famosi falascia, detto in maniera dispregiativa, però le considerano tali. E se te hai sentito, anche negli ultimi giorni ci sono state manifestazioni a Tel Aviv, a Gerusalemme, proprio per rivendicare una stessa parità di diritti, perché anche loro sono ancora, dopo decenni, perché c'è la missione Giosuè, le tre missioni con gli aerei che li riportarono appunto in Israele risalgono agli anni 70, a tutt'oggi sono considerati ai bordi della società e sono relegati a lavori di manovalanza, ma soprattutto non hanno dignità, pur essendo appunto anche loro ebrei, ma hanno fatto numero e questo serviva. Bene, dopo un brevissimo intervallo musicale possiamo parlare un attimo della questione dell'acqua? Sì, parliamo. Thank you. sulla prima dell'acqua, sulla, una cosa ancora su questa, su queste stratificazioni sociali che ci sono nel, in Israele. C'è un libro importante che volevo segnalare, quello di Vera Pegna, ebrea, che si intitola Le vittime ebree del sionismo. E questa parla proprio, lei che è figlia di ebrei sefarditi, quindi cioè, quelli vengono dalla Spagna, nata in Siria mi pare, comunque figlia di ebrei sefarditi, lei parla di come gli ebrei sefarditi sono stati trattati e che tipo di conflitti e che tipo di degrado sociale era quello in cui erano collocati. Tanto ultimamente parlavo con una persona ebreo di nazionalità marocchina, cioè di origine marocchina, che vive in Israele, e lui mi diceva: loro odiano di più noi ebrei marocchini che non i palestinesi. È tutto dire. Va bene. Vogliamo parlare un attimo dell'acqua? Sì, una cosa molto eloquente. Le risorse idriche, che puoi ben capire in un paese con un clima così arido, come in qualunque altro paese, insomma, le risorse idriche vengono amministrate, gestite e vendute da una compagnia semistatale israeliana, la Mekorot, che controlla ben l'87% delle falde acquifere della Cisgiordania. Anche se bisogna ricordare chiaramente che fin dal mandato dell'ONU nella parte israeliana erano state lasciate le sorgenti del Giordano, e quindi preme il controllo della rete idrica, delle acque. In più, appunto, ora c'è proprio un'amministrazione e gestione proprio in mano israeliana, e sappiamo il problema dell'acqua, quanto è annoso, cosa sta succedendo a Gaza, ad esempio, in questi giorni, no? Con il fatto che l'energia elettrica non sta arrivando, già arrivava poco, ma non sta arrivando neanche in tempi regolari, e quindi le pompe non possono più utilizzare l'acqua dei pozzi, che diventa quindi acqua stagnante, putrida, e c'è un problema di scoppio di epidemie. Questo come in tutta la Cisgiordania. Io sono andata nel campo profica Ida e loro dicevano che l'acqua gli veniva data col contagocce, cioè ogni 10 giorni per 8 ore al giorno. Infatti sul tetto ogni casa aveva la cisterna. Ma anche perché mi pare che i pozzi palestinesi sono stati murati da parte di Israele. Sì, è vero. E i palestinesi hanno la possibilità di scavare non più di un certo numero di metri sotto per cercare l'acqua. Non più di 70 metri. Ecco, mentre gli israeliani ovviamente non hanno limiti di questo genere. Altre pillole sull'economia. A livello di politica, diciamo, monetaria, allora a Ramallah, che è la capitale della Cisgiordania, non esiste una banca centrale. A dettare le politiche monetarie, che cos'è? È la banca centrale israeliana, che quindi non ha interesse a migliorare le condizioni di vita dei palestinesi. Tant'è vero che vengono scentinati gli investimenti, cioè meglio i finanziamenti per gli investimenti, nel senso che non si finanzia l'idea imprenditoriale, ma si dà maggior finanziamento a che cosa? Al credito del consumo. Il credito del consumo è quello, anche da noi, che viene utilizzato per acquistare elettrodomestici, auto, moto, televisori, no? Ma appunto dov'è la strozzatura? Che il finanziamento non viene erogato invece per supportare una start-up, cioè un'idea imprenditoriale che darebbe la possibilità anche ai palestinesi di poter avere la costituzione di aziende, di tirare su le aziende che sono state strozzate, perché tanto si sa, senza finanziamenti gli investimenti languono, e quindi anche in questo senso abbiamo quella che in questo libro viene chiamata una politica prigioniera di queste politiche israeliane, nel senso che, come dire, il mix di annessione, isolamento, esternalizzazione della produzione e poi con la costruzione del muro ha innalzato paurosamente il tasso di povertà e generato quindi che cosa? Una mancanza a questo punto cronica delle strutture, infrastrutture e servizi, e quindi ha generato appunto questa povertà per mancanza di occupazione in tutti gli ambiti nei quali si sostiene un settore produttivo nazionale. E poi ha anche fatto un'altra cosa, ha depaporato, cioè ha annullato il settore commerciale, e cioè quello particolarmente che potrebbe essere proficuo per ogni nazione, vediamo anche il caso nostro, quello turistico. Sì, mi leggevo che nella più grossa, cioè in quella che era la più grossa città palestinese, che è Nazareth, e Nazareth, ricordiamo, è stata non fu è rimasta come grande città palestinese perché quando, nel 48, il generale ebreo che aveva l'ordine di sgomberare con la violenza Nazareth si rifiutò di farlo. Questo era un canadese e insomma le persone che avevano una certa coscienza c'erano anche allora, e lui rifiutò di farlo e così è rimasta Nazareth come città palestinese. Però ecco, negli anni successivi lo Stato di Israele intorno a Nazareth è interna allo Stato, sì, di Israele, certo. A fianco di Nazareth, della vecchia Nazareth, Israele è andata costruendo la nuova Nazareth. Ecco, i flussi turistici da parte di Israele vengono accuratamente rivolti verso dirottati, nuova Nazareth, sì. Cercando di evitare il più possibile alberghi, risorse che in qualche maniera diano da mangiare ai palestinesi. Questo a Nazareth e questo dovunque per quanto riguarda il turismo. Ma abbiamo detto il turismo. L'acqua i palestinesi la pagano 7 volte di più di quello che la pagano i coloni. Abbiamo detto la terra, e la terra viene rubata giorno per giorno. Attività artigianali e industriali che vengono sacrificate, vengono in qualche maniera tiranneggiate. La pesca è limitata, resa praticamente impossibile dalle poche miglia che Israele concede e che poi disturba anche, perché mentre a Gaza pescano, ho visto proprio dei filmati su questo, pescatori che pescano e le motovedette israeliane che gli girano tutto intorno alle barche per impedirgli di pescare. E cose, diciamo, è un'economia soffocata, strangolata, e con una disoccupazione che supera il 40%, e quindi una situazione di miseria scientificamente studiata e applicata. È una visione pessimistica questa con cui vi lasciamo in questo caldo torrido. E riprenderemo, come si è detto, il 4 di settembre. Per ora un breve intervallo musicale e poi un arrivederci. Allora, un caloroso saluto da tutti noi, da Claudio, Gianni, Marisa, oggi in trasmissione, e, per darci un appuntamento al 4 settembre. Speriamo che questi nostri intrattenimenti vi possano dare materiale di riflessione, e continuando a sentirci, anche se non ci vedete, non ci vediamo, vorremmo pensare che il nostro apporto e il nostro spazio avuto per dare voce a quello che non viene detto sui giornali possa essere proficuo per ognuno, per formarsi una propria coscienza sul problema palestinese. Di nuovo, allora, a un rivederci caloroso da tutti noi. Un'ultima cosa, allora, perché dunque stiamo concludendo con una nota decisamente pessimistica, no? D'altra parte, se parliamo dell'economia palestinese, è una delle economie più disastrate del mondo, insomma, quindi non possiamo certo dire nulla di ottimistico. Ci si chiede, ma era necessario arrivare a questo? Ecco, su questo dovremo fare una trasmissione apposta, perché c'è un detto da parte di una persona assai influente, che è stata una persona assai influente dello Stato israeliano, che è Abba Eban, che fu ministro degli esteri, il quale disse una volta: i palestinesi non perdono un'occasione di perdere un'occasione. Queste occasioni, se occasioni davvero sono state, questo lo vedremo presto. Grazie e arrivederci a settembre. أرضي وبلادي قلبي وفؤادي.